nuovo in diretta dagli studi di Via Zanardi, Radio Città Fujiko, è il Breakfast Club di vigilia di weekend, venerdì 13 ottobre, ovviamente 2023. È il Breakfast Club che vorrei strutturare quando ce n'è la possibilità per tutta la stagione, cioè avere lo spazio di lettura delle prime pagine, lo stacco con il GR di Radio Popolare e rientrare dividendo il nostro spazio rimanente con la rubrica Altri suoni e relativi eventi, la rubrica del giorno dal lunedì al venerdì e concludere con un last minute. Ecco, è esattamente insomma quello che prende piede ed è esattamente quello che succederà oggi. Iniziamo con Angelica. Allora, l'icona di Angelica di quest'anno, l'immagine, chiamiamola più precisamente così, è un astista, è un saltatore, è un atleta che appunto alza l'asticella. È proprio quello che succederà e quello che fa succedere Angelica questa sera alle ore 19:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, quindi via San Vitale 63, ve lo dico per la precisione. Dalle ore 19:30 ci sarà la possibilità di conoscere l'ensemble olandese Scordatur in prima assoluta. Verranno presentati diversi brani, io ho selezionato due parti, ringraziando anche il co-curatore di Angelica, Walter Rovere, che a breve sentiremo per una breve presentazione. Protagonista del prossimo appuntamento di questa sera Angelica, Centro di Ricerca Musicale, è l'originale ensemble olandese Scordatur. È formato da Alf Schmidt, mezzo soprano, Elisabeth Smalt alla viola e Reinhold von Hood alla tastiera microtonale MIDI. E verranno impegnati, si esibiranno in prima assoluta su musica di James Tenney, Ned Gowan, Peter Adrians e Juhani Nurvala. Io ne ho così selezionate due parti, una sul brano di James Tenney, compositore nordamericano e figura chiave nella narrativa della musica microtonale, dopodiché una parte al compositore olandese Peter Adrians. Enclosure segue invece un percorso, seppur microtonale, strettamente concettuale. Beh, avremo modo di ascoltare la voce di Walter Rovere per questo innalzarsi dell'asticella nell'ascolto, piccoli microtonale e microparti di brani in questi altri suoni per la serata di questa sera, venerdì 13 ottobre alle ore 19:30. Angelica, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Allora, loro sono innanzitutto due musicisti che sono due del trio, sono già stati ad Angelica. Elisabeth Smalt aveva suonato la viola a un concerto di suo Phil Niblock, e Rainer Van Hoot è tra l'altro famoso anche nel giro, diciamo, rock, perché è pianista dei Cave 93, ma lui era venuto tante volte, l'ultima con Francisco Lopez. Loro sono un ensemble che è nato inizialmente per eseguire le opere di Harry Parch, che era un strano compositore anni 50 americano, di cui è apprezzato molto ad esempio Tom Waits, di quei dischi tipo Rain Dogs, Frank's Wild Years. E lui aveva inventato degli strumenti basati su una scala di 43 toni per ottava, che l'ensemble l'ha fatto ricostruire in Olanda. Perciò hanno iniziato a commissionare brani a compositori contemporanei suonabili con gli strumenti di Parch, oppure o comunque brani microtonali. E il programma che presentiamo comprende tutte prime italiane e una prima mondiale, e sono tutti brani scritti o arrangiati appositamente per l'ensemble. Due dei compositori vengono apposta dall'Olanda, tra l'altro. Sì, allora apriamo con un omaggio a James Tenney, che abbiamo fatto eseguire diverse volte, tra l'altro è uno dei pezzi eseguiti, è uno dei compositori eseguiti dai Sonic Youth quando fecero quel disco sul XX secolo. E lui è un compositore scomparso, pioniere della computer music, tra l'altro nel 61 fece un collage basato interamente su Bruxelles Shoes di Elvis Presley, era uno molto originale, diciamo. E i tre compositori che seguono sono due americani e un finlandese, Sono tutti autori di musica contemporanea non accademica, che sperimentano nuovi formati. Ad esempio Nell McGowan ha fatto un concerto per iPad e orchestra, perciò si ascolteranno, diciamo, dei brani che uniscono in modo molto sottile la voce e strumenti acustici a onde sinusoidali elettroniche. Alla fine però ci sono anche 5 canzoni che l'autore definisce pop in accordatura jazz intonation, e sono tratte da una sua opera su Andy Warhol. Canzoni che raccontano i pensieri delle superstar della Factory di Warhol, ed è una suite che ascolteremo in prima mondiale. E questo appunto sarà venerdì 13 ottobre al Centro di Ricerca Musicale per la Rassegna Angelica, con la curatela di Walter Rovere qua al telefono con noi, che ringrazio tantissimo, e poi ci ritroveremo per altri motivi di incontro. Il biglietto è 7 euro, quindi è accessibile, invito tutti a ascoltare, a venire. Grazie. Sonorità della musica microtonale, grazie Walter Rovere, co-curatore dell'evento Angelica nella 10ª edizione, per questa sera, questa pillola in musica che certamente è unita a un contesto d'ambiente, oltre che, come dico, innalzare l'asticella della conoscenza in ambito musicale per quanto riguarda ricerca e sperimentazione. La prima parte che abbiamo ascoltato è un brano di Peter Adrian, dopodiché quello che ancora sta andando è invece James Tenney, di cui ha parlato e dato presentazione Walter. Quindi la possibilità di conoscere l'ensemble olandese Scordatur in prima assoluta, ensemble olandese Scordatura, sarà per la rassegna Angelica che seguiamo. Poi parleremo anche di John Zorn in una particolare motivo d'incontro concerto che sarà tra qualche giorno protagonista sempre nella rassegna, di cui abbiamo grande parte di piacevole impegno, seppur molto curioso e intenso, con la rubrica Altri suoni. A breve invece andiamo con la rubrica In scena per alzare il sipario sui 103.1 come ogni venerdì. A tra poco. Space visual.